Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchessi per quest'oggi 22 gennaio, seconda edizione di Italia in controluce, racconto della cronaca di Radio 24. Ci sono storie importanti che non hanno tempo e che restano indelebili. Sono storie importanti della memoria italiana. 29 settembre 1944. Siamo nella zona di Montesole, in provincia di Bologna. Quattro reparti delle truppe naziste della 16ª divisione Panzergranadier accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli dei fiumi Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine e scuole. Dopo sei giorni di rastrellamenti di violenze, 1830 persone perdono la vita. Cornelia Paselli, una delle superstiti della strage di Mazzabotto Montesole. Un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, scolammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, tre giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era il 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia, lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutti fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva... tanto fumo dentro, sentì che gridava, urlava: lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Perché oggi parliamo di Mazzabotto? Perché oggi, proprio oggi, esce in tutte le sale cinematografiche un film bellissimo, un capolavoro, girato in un lembo di Appennino tosco-emiliano, dove è certamente passata la storia. L'uomo che verrà, di Giorgio Diritti. Lo ha incontrato per Italia in controluce la nostra Marta Cagnola. L'idea c'è ed è un'idea storica. Molto semplicemente, a un certo punto Kesterling ha fatto delle scelte di lotta alle bande partigiane, dando delle istruzioni in cui sottotraccia si diceva che comunque eventuali eccessi nei confronti delle azioni dei soldati sarebbero stati tollerati. Nell'ambito delle SS in particolare c'erano persone ancora molto convinte che la guerra si potesse vincere, e questi hanno effettuato le cose più disastrose. Non a caso, dopo le vicende di Mazzabotto eccetera, è da ricordare che si è modificato l'atteggiamento nei confronti di, diciamo, questo sterminio che era avvenuto di civili, perché Mussolini direttamente ha protestato facendo presente che azioni di quel tipo avrebbero portato comunque inevitabilmente tutta la popolazione ad odiare i tedeschi e quindi a una sconfitta certa. Salita fra la guerra, la bufera della parte di Binz. Nella storia che le plena di guerra. Chi se ne frega, la storia che clappa. Non ho raccontato tutto, devi fare delle scelte, quindi qualcosa rimane indietro. Un po' di preoccupazione c'è, ma spero che nella sensazione generale la dimensione emotiva vinca. Io ho combattuto, tra virgolette, una battaglia pacifica, cercando di far sì che la storia di tutte queste persone che hanno attraversato quella vicenda fosse a testimonianza per il futuro, perché vicende simili non accadano più. Italia in controluce. Sempre la memoria italiana. Anni dopo, il 24 gennaio 1979, 31 anni fa. È il giorno in cui le Brigate Rosse uccidono l'operaio, il sindacalista Guido Rossa, Andrea Ferro. Guido Rossa lavora in fabbrica, Guido Rossa è un sindacalista della CGIL, ma per i brigatisti è un nemico, un infame, perché una mattina nello spogliatoio delle acciaierie non ha fatto finta di niente quando ha scoperto chi era a seminare volantini con la stella a cinque punte. Lo ha denunciato e al processo ha testimoniato contro di lui, perché un conto è l'ideologia, un conto è la violenza. Anche tanti altri sapevano, ma loro sì, si sono girati dall'altra parte. D'altronde c'è chi sui muri scrive né con lo Stato né con le Brigate Rosse, e a Genova non sono pochi a pensarla così. Con quella scelta di campo Guido Rossa è rimasto solo per un atto di coraggio in una città rannicchiata sotto una cappa grigia come il piombo, che con geometrica potenza viene scaricato su corpi inermi. Guido Rossa abita ad Oregina, quartiere popolare dignitoso con le case che sembrano terrazze appese in equilibrio una sull'altra per sfruttare ogni minimo spazio lasciato dalla collina affacciata sul porto. All'alba del 24 gennaio a Genova fa freddo. Guido Rossa esce di casa presto per andare in fabbrica. Pochi passi, sale sulla 850 e sosta in via Fracchia. Un comando lo attende. Si scoprirà che il covo della colonna era a 100 metri. Gli sparano prima le gambe, poi uno dei killer alza la mira ed esegue la condanna a morte. I pentiti racconteranno che quella mattina avrebbero dovuto solo ferirlo. La mattina del 24 gennaio del 79 io uscii molto presto da casa per recarmi a scuola, come tutte le mattine, e passai proprio di fianco all'auto dove era ancora riverso mio padre. Questo l'ho ricostruito in un secondo tempo, perché quella mattina in realtà, passando accanto all'auto e con un, era ancora molto buio, non mi accorsi in realtà di nulla, non mi accorsi dei frammenti di vetro sul terreno né dei bossoli, e arrivai a scuola dove notai immediatamente un certo trambusto, notai gli studenti fuori dalle aule, le aule senza i professori, e anche qui ben lontano dal collegare tutta questa atmosfera con quella che era poi la mia vicenda personale. Fui riaccompagnata a casa pochi minuti dopo e lì venni a conoscenza di quello che era accaduto, incontrando dapprima mia madre che mi venne incontro dicendomi hanno ammazzato papà. Ai funerali di Guido Rossa partecipano in 100.000, alla camera ardente il presidente Pertini accarezza la salma. La classe operaia sfila ammutolita e sconcertata. In fondo l'avevano lasciato solo di fronte ad una decisione che non contemplava vie di uscita. Mio padre era una persona, era un uomo di montagna, era abituato a prendere decisioni in modo rapido, tempestivo, abituato ad assumersi le responsabilità delle sue azioni. E rimane ancora il fatto che mio padre comunque rimase allora l'unico testimone. Si dirà che la morte di Guido Rossa è stata l'inizio della fine delle BR, la sconfitta politica. Quella militare arriverà un anno dopo, a pochi metri dal luogo dell'agguato, i carabinieri scoprono il covo della colonna genovese. Conflitto a fuoco, 4 morti, tra loro uno degli assassini di Guido Rossa. Un altro scappa ed è tuttora latitante, il terzo componente del comando è arrestato. Si chiama Vincenzo Guagliardo. Nel 2005 Sabina Rossa lo va a trovare, è in regime di semilibertà. Io ho incontrato Vincenzo Guagliardo nel 2005, ho parlato a lungo con lui per due motivi. Volevo innanzitutto ripercorrere i fatti di quella mattina, volevo che lui mi raccontasse quella che era la sua verità, e avevo bisogno anche di un confronto ravvicinato con colui che aprì per primo il fuoco, che era stato negato a mio padre quella mattina. Dopo aver incontrato Vincenzo Guagliardo ho parlato col giudice di sorveglianza che doveva decidere sulla sua scarcerazione, per dire che il brigatista che nel gennaio del 79 sparò al sindacalista Guido Rossa oggi è un'altra persona. La legge prevede che la concessione della liberazione condizionale deve prevedere l'accertamento del requisito di sicuro ravvedimento, che viene provato questo requisito dall'effettivo interessamento manifestato del condannato nei confronti della vittima. Personalmente sono profondamente convinta che i parenti di una vittima non debbano decidere sulla sorte di chi è ritenuto colpevole, perché per i condannati è anche ovvio che possa esserci un possibile uso strumentale finalizzato unicamente all'ottenimento del beneficio, e per le vittime è una pesante incombenza delle quali non hanno assolutamente bisogno, che spesso va anche a riaprire ferite mai rimarginate. Italia in controluce. L'ultima parte di Italia in controluce riguarda invece un'eccellenza culturale italiana. Il nostro direttore Gianfranco Fabi. La Biblioteca Ambrosiana sbarca a Gerusalemme. Nei prossimi giorni verrà inaugurata alla Knesset una sala curata proprio dalla Biblioteca Ambrosiana con le opere di Leonardo. Ne parliamo con Giorgio Ricchebuono, presidente della Fondazione Cardinale Federico Borromeo. Questo passo verso la Knesset è un modo per far conoscere la Biblioteca Ambrosiana, per far conoscere uno dei suoi più pregiati tesori, quello di Leonardo. È vero, la Biblioteca Ambrosiana ha moltissimi tesori, ma il tesoro più famoso e più riconosciuto al mondo è sicuramente il tesoro di tutte le opere leonardesche che sono qui da noi possedute. Che cosa presentate a Gerusalemme? Presenteremo 7 fogli del Codice Atlantico, il Codice Atlantico che ha 1119 fogli e che è esposto dal 10 di settembre in 2 siti qua a Milano, il nostro, la Federiciana, quindi presso la Biblioteca Ambrosiana in piazza Pio XI 2, e presso la Sacrestia Monumentale del Bramante, che è molto vicino a Santa Maria delle Grazie e quindi vicino all'ultima cena di Leonardo. Quindi è un percorso che voi avete cominciato, ha parlato di oltre 1000 fogli, si concluderà in occasione dell'Expo. Perfetto, noi abbiamo anche un ottimo rapporto con l'Expo. L'Expo ci riconosce come uno dei musei vicini al loro spirito e accompagnerà tutto questo tempo con le mostre e con anche un aiuto il nostro peregrinare sia nel mondo, perché anche per quanto riguarda la nostra mostra a Gerusalemme sarà sponsorizzata dall'Expo, e di conseguenza questo è un accompagnamento che durerà fino al 2015. Quindi il viaggio dell'Expo è nel segno di Leonardo e un po' anche nel segno dell'Ambrosiana. Direi di sì, e anche nel segno della Fondazione Cardinale Federico Borromeo, di cui io sono presidente, e che si affianca all'Ambrosiana per raccogliere fondi e per poter restaurare tutte le opere d'arte qua detenute, che sono un tesoro non solo per l'umanità ma soprattutto per i milanesi che devono venire a vederla, perché è un posto unico e veramente magico che dà emozioni a non finire. L'Ambrosiana, lo ricordiamo, è proprio in centro a Milano e i milanesi non faranno fatica a trovarla. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Il racconto di Italia in controluce termina qui, come anche la prima settimana di messa in onda. Decine di reportage, servizi, interviste, temi, trattati, tutte le puntate disponibili su www.radio24.it. Le vostre domande le potete inserire già da subito sulla bacheca del gruppo di Facebook Radio 24 Italia in controluce, oppure inviare via mail controluce@radio24.it. A risentirci lunedì alle 6.30.